Buongiorno Palestina, 25esima trasmissione sulla Palestina del mercoledì dalle 19 alle 19.30. In breve le notizie della settimana. L'URVA, che è l'ente di assistenza dei profughi palestinesi, è sempre più in crisi dopo il taglio di 360 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. Quindi, seconda cosa, mercoledì scorso il ministro israeliano per gli affari militari, che Naftali Bennett, ha approvato la creazione di sette nuove riserve naturali nella Palestina occupata, che è di fatto un nuovo schema, un nuovo metodo per rubare terra palestinese. E in questi termini i palestinesi hanno de deciso di denunciare la cosa alla Corte Penale Internazionale, però questo è un argomento su cui torneremo tra poco. Terza cosa, Tel Aviv ha anche annunciato l'espansione di altre 12 riserve naturali con di fatto il furto di 5.300 ettari di territorio palestinese. Quarta cosa, sempre più difficile nella Palestina occupata trovare un lavoro da parte di qualificati, cioè si ripete il fatto che laureati, e c'è un alto numero di laureati, debbono andare a fare lavori umili, perché nella Palestina occupata non c'è possibilità di lavoro qualificato. Cioè, la gran parte della popolazione palestinese, che era una popolazione agricola, oggi deve fare l'operaio presso le colonie o presso il territorio, presso Israele. E ci sono una serie di casi di laureati che vanno a fare i muratori, i manovali più che i muratori in Israele. Inoltre, altra notizia, nel dicembre di 2019 è stato fatto un consuntivo, è stato prodotto da parte di Adamer, che è un'organizzazione di aiuto ai palestinesi. È stata pubblicata il dato consuntivo degli arresti. 5.000 palestinesi sono stati arrestati nei territori occupati nel 2019. E soprattutto un bersaglio in crescita sono gli studenti, soprattutto nelle università di Bir Zeit in Cisgiordania, dove ne sono stati arrestati 290 studenti. Infine, la denuncia da parte del Comitato Nazionale per la Resistenza al Muro e agli Insediamenti. È stato denunciato il numero di demolizioni di case palestinesi che sono state nel 2019 686, di cui 300 solamente a Gerusalemme. Quindi è anche la denuncia da parte di questo comitato che non solamente le case vengono distrutte, ma vengono cancellate attualmente, cioè la politica di Israele è quella non solamente di demolire case, ma di cancellare intere comunità. Per venire adesso al tema di oggi, ho davanti agli occhi una vignetta, partiamo da questa, ed è una vignetta in cui c'è una signora dall'aspetto africano, comodamente seduta su una serie di problemi, e questi problemi si chiamano massacro di Gaza, Mavi Marmara, demolizione di case, imprigionamento di ragazzi. Che cosa vuol dire questa vignetta e chi è questa signora? Lo chiediamo agli ospiti di oggi, che sono Laura e Fiorenza, e che ci descriveranno questo problema di cui ho parlato e ci diranno anche della loro esperienza recente. Allora, Laura. Intanto buonasera. Sì, io e Fiorenza siamo state all'AIA davanti al Tribunale, alla Corte Penale Internazionale a protestare perché appunto questa signora seduta sui pacchi o sui dossier è Fatou Bensouda, che è la procuratrice, la persona che per ben due volte ha rifiutato di prendere in carico le denunce palestinesi. Denunce che fin dal 2015, perché la Palestina ha ratificato il trattato e quindi fa parte dei 123 paesi che sono nella Corte Penale Internazionale, la Palestina aveva denunciato confische di terra, demolizioni di case, arresti in detenzione amministrativa, cioè senza processo né accuse ufficiali, costruzione di colonie, con trasferimento della propria popolazione in territorio occupato da parte di Israele, oltre alle migliaia di vittime civili durante le offensive militari contro la striscia di Gaza. E poi la Mavi Marmara. La Mavi Marmara, come forse qualcuno ricorderà, era una nave che faceva parte della Freedom Flotilla che cercava di portare aiuti a Gaza, di cui magari in questo momento l'approfondimento potrebbe venire fatto dalla Fiorenza. Sì, buonasera. Ormai 10 anni fa, il 31 maggio 2010, una nave turca della Freedom Flotilla, che comprendeva 8 navi con a bordo 70 passeggeri che venivano da moltissimi paesi, una quarantina, fra cui anche l'Italia, era diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione stremata dopo l'attacco militare cosiddetto piombo fuso. Questa nave viene attaccata di notte, la Mavi Marmara, dalle squadre speciali dell'esercito italiano israeliano, scusate, in acque internazionali, di fronte a Gaza e di fronte allo Stato di Israele. La motivazione è tentata violazione del blocco, cioè Netanyahu sosteneva ha sostenuto che si trattava di legittima difesa. Il bilancio pesantissimo fu di 10 morti e 60 feriti. A bordo di quella nave turca c'era il giornalista e regista israeliano di origine palestinese, scusate, Rifat Audeh, che aveva con sé la telecamera perché aveva intenzione di filmare l'arrivo degli aiuti a Gaza, l'accoglienza da parte della popolazione. Si trovò invece a filmare tutt'altro, cioè un attacco brutale, la violazione dei diritti umani, la violazione del diritto internazionale. E la telecamera poi La telecamera gliel'hanno distrutta oppure è riuscito a no, mantenere i è filmati? riuscita a mantenere il filmato e il documentario che dura circa 50 minuti si chiama The Truth. Lost at Sea, è un documentario che è uscito nel 2017 e dovrebbe essere stato proiettato anche in alcune città italiane nel novembre scorso, quando Aude è venuto a fare un tour in Italia ed è stato con l'occasione intervistato da Chiara Cruciati per il manifesto. Quindi le informazioni vengono da quest'articolo. Ha avuto anche dei premi questo documentario? Sì, mi pare di sì. Credo di sì, ma lo dobbiamo ricercare. Dunque, conviene forse ricordare che, perché noi abbiamo a questo punto un'idea di Gaza come una zona vittima, ed è una zona vittima perché viene chiamata una prigione a cielo aperto, ed è così perché sono 2 milioni di persone in un'area molto ristretta. Ma Gaza è tradizionalmente, da sempre, era almeno una zona ricca. Era un po' era il Granaio, granaio, sì. le fragole di Gaza erano famose in tutta l'Arabia. Ecco, questa è stata trasformata in una prigione e in un luogo di sofferenza. Ecco, dobbiamo tener conto. E da prima che da Gaza venissero evacuati la popolazione ebraica, che è avvenuto nel 2005, Gaza era già stata oggetto di attacchi, di bombardamenti da parte di Israele da sempre. Quindi non è che piombo fuso o poi la successiva guerra tremenda di margine protettivo sono state delle novità. È da sempre che Gaza viene attaccata dalle truppe prima di Sharon, prima da parte di Commandos, prima di piccole guerre, ma da sempre Gaza è oggetto ed è vittima delle vendette e dell'invidia di Israele. A questo proposito volevo aggiungere che per l'appunto la signora Fatou Ben Soudan, di cui parlavamo poc'anzi, aveva detto che la questione della nave Marmara e dei 10 assassinati, uccisi dai militari israeliani, non erano un numero sufficiente per parlare di un massacro, per parlare di qualcosa di cui lei si potesse occupare, lei come corte penale. E in realtà, appunto, ci sono stati anche tutti, come diceva Fiorenza prima, quanti erano i feriti? Migliaia di feriti nel piombo fuso, perché la nave Marmara è semplicemente No. la conseguenza di piombo fuso, nel senso che ci sono stati dei volontari che volevano portare aiuti alla popolazione che stava morendo. E allora mi sembrava che però forse Fiorenza, forse c'era anche qualcosa su piombo fuso che si potrebbe Sì, raccontare di va più? bene. Allora, io vorrei ripartire dalla Freedom Flotilla, dalle prime navi, Frigasa e Liberty, che partite da Cipro il 23 agosto 2008 riuscirono ad arrivare a Gaza, accolte con grande gioia dalla popolazione. Questo era il primo viaggio. A bordo di una di queste navi, insieme a altri volontari, una quarantina che venivano da tante nazioni anche in questo caso, c'era il giovane attivista italiano Vittorio Arrigoni, che iniziò così il suo strettissimo legame con la popolazione di Gaza. Tra l'altro, c'è un bel racconto di questa spedizione e dell'emozione di Vittorio all'arrivo. E questo racconto è stato raccolto dalla madre, Egidia Beretta, in un bel libro che si chiama Il viaggio di Vittorio. Allora, il 1 febbraio prossimo, la signora Beretta presenterà il libro alla Casa del Popolo di Vingone alle ore 18. E seguirà poi una cena sociale e un coro, il coro 900 su Che Guevara. Il titolo dell'incontro a cui siamo tutti invitati è Figli un po' speciali, si capisce perché, evidentemente. Inizia poi l'operazione militare Piombo Fuso, cioè l'attacco delle forze israeliane a Gaza. Questo è il 27 dicembre 2008 e alla fine di quel mese una nave che si chiamava Dignity viene speronata dalle forze israeliane e non arriverà mai a Gaza. L'attacco dura ben 23 giorni, colpisce con estrema violenza la popolazione che era già in condizioni difficili a causa del blocco israeliano e della chiusura dei valichi di frontiera. E alla fine il bilancio è pesantissimo. Siamo al 18 gennaio 2009, si contano più di 1.400 morti, in grandissima parte tra i civili, e 5.300 feriti. I morti israeliani sono 13, di cui 10 militari. Vittorio Arrigoni, come è noto, restò a Gaza, partecipò attivamente al movimento di solidarietà internazionale a protezione dei contadini e pescatori e lasciò la sua testimonianza nel libro Restiamo Umani, in cui sono raccolti gli articoli pubblicati sul manifesto, quelli che lui inviava durante l'assedio, diciamo, e in cui raccontava la condizione dei civili. In pratica era l'unico corrispondente da quella zona di guerra. Facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo con le voci di Laura e Fiorenza. أسترنا غصن متعب Riprendiamo dal tema della Corte Criminale Internazionale. Oltre alla vignetta che citavo all'inizio, vedo una serie di vignette sulla signora Bensoudah, e tutte queste vignette hanno un tema comune, che è la Bensoudah se la prende comoda. Allora, su questo ci dice qualche cosa, Laura. Ma in effetti sì, perché tant'è vero che è stata la Corte stessa, la Corte Penale stessa, che ha ordinato alla Bensoudah di dare una risposta e di riconsiderare la possibilità di perseguire Israele per l'arrembaggio alla nave Marmara, in quanto le isole Comore, proprietarie della nave, avevano fatto appello. E siccome questa cosa è possibile, i giudici della stessa corte hanno dovuto chiedere alla procuratrice, che evidentemente non aveva tanta voglia perché sia nel 2015 che nel 2017 aveva detto che non si poteva procedere, e doveva dare questa risposta entro il 3 dicembre. Che cosa succede questo? Questa notizia esce i primi di settembre del 2019. Il 20 settembre del 2019 parte un appello europeo dalla Olanda, Francia, Germania e Belgio. Un appello che diceva: noi l'abbiamo visto, io e la Fiorenza l'abbiamo visto in francese, manifestiamo all'Aia perché i crimini di Israele siano finalmente giudicati dalla Corte Penale Internazionale. E quindi noi sapevamo appunto che questa cosa sarebbe successa e ci siamo messi in contatto con il gruppo di Europalestine, il gruppo francese molto attivo, che peraltro a Parigi ha anche una bellissima libreria che si chiama Resistance, dove non si parla solo della resistenza palestinese, ma di tutte le resistenze del mondo. Vi consigliamo di andarla a vedere nel 17° arrondissement, una bellissima libreria che ha subito attacchi da sionisti, ma che insomma invece continua valorosamente a fare il suo lavoro. E attraverso questo gruppo siamo andate prima a Parigi e poi da lì con un bel pullman. Eravamo da Parigi, siamo partiti due pullman, quindi eravamo un centinaio di persone, e siamo arrivati all'Aia in una giornata freddissima di novembre, 29 novembre. Vi ricordo il 29 novembre, nel frattempo c'era anche la manifestazione dei Fridays for Future mondiale, e quindi questi due momenti sono stati. Quella era la giornata dedicata alla Palestina anche, il 29 novembre, ai diritti dei palestinesi, del popolo palestinese. Siamo arrivati, non eravamo moltissimi, però eravamo almeno 400 persone, vero? Sì, 400 Almeno persone. 400 persone, molto con canti, slogan, e per fare pressione, appunto, fuori della corte, per fare pressione sulla famosa signora Bensoudah, la quale è stata ai suoi tempi, lei è gambiana, ed è stata procuratrice nel suo paese quando c'era un famoso dittatore, famoso per noi no magari, ma comunque che è stato un dittatore che per più di 20 anni. Dopo un colpo di Stato, lei era non solo la procuratrice generale lì, ma era anche ministro della giustizia, per cui insomma qualche perplessità sul suo modo di operare anche quando ha voluto o comunque ha dovuto occuparsi dell'Afghanistan, dei crimini commessi dagli americani. Lei in effetti, gli americani le hanno tolto il visto per andare, non ha mai reagito molto, appunto sembra una persona molto placida, ecco, mettiamola così. Ecco, mi pare che qui è da considerare che gli Stati Uniti non hanno ratificato il Trattato di Roma sul riconoscimento della Corte Penale Internazionale e neanche Israele. Certo. Tra l'altro, Certo. Israele sostiene, lo ricordava Angelo Baracca all'ultima manifestazione, Israele contesta questo ricorso da parte dei palestinesi alla Corte Penale Internazionale. Dicendo, Israele dice, che la Palestina, non essendo uno Stato, non può ricorrere alla Corte Penale Internazionale. Quindi Israele non vuole che venga costituito lo Stato, però, non vuole, però e dice che non possono ricorrere in quanto non sono uno Stato. Cioè, come se non fossero i palestinesi degli esseri umani, degli esseri che soffrono, degli esseri che hanno dei diritti. Ecco, è la cancellazione della realtà palestinese. Bene, proseguiamo su questo tema. Sì, appunto, mi fa pensare proprio questo, che Netanyahu aveva subito detto, dunque quando noi abbiamo fatto questa manifestazione il 29 novembre, una delegazione è stata ricevuta da due persone che erano, non so, assistenti, sottoassistenti della procuratrice che non hanno saputo dire niente. E quindi noi ce ne siamo andati, poi siamo tornati indietro un po' con la coda fra le gambe pensando che non fosse servito a granché. E invece, colpo di fulmine, il 20 dicembre del 2019 viene a sapere che Ben Sudà de ha deciso di invece rivedere e di accettare questo dossier, che era poi un dossier che appunto era stato messo in piedi non solo dalle ONG palestinesi, tra cui a capo delle quali c'era anche Mustafa Barghouti, nome che forse conosciamo, ma anche da altri avvocati internazionali. Quindi insomma un dossier molto corposo, ma anche dove ci sono delle prove, direi, inconfutabili. E comunque lei ha detto questo. Netanyahu, il giorno dopo, cioè il 21 dicembre, o forse lo stesso 20 dicembre 2019, ha detto che questa cosa non ha. Intanto loro, Israele, così come gli USA, così come la Russia, il Sudan, la Cina, cioè su la CPI è stata ratificata da 123 paesi. Su 193 dell'ONU, insomma, e quindi molti, fra cui appunto la Palestina. Allora, quando Netanyahu dice che la Palestina non ha diritto perché non è uno stato sovrano, la risposta invece che gli è stata data da tutti è che proprio perché non ha potuto essere uno stato perché è occupata, cioè uno stato, lei non può da parte sua fare un processo, e quindi questo è proprio. Ha il diritto di rivolgersi alla Corte Penale Internazionale, perché è proprio uno dei casi nei quali la Corte Penale Internazionale può intervenire. E naturalmente, qual è stato il secondo atto in commedia di Netanyahu e di tutta la lobby e degli Stati Uniti, Mike Pompeo e Trump e ancora, che Ben Sudà e la Corte Penale sono antisemiti. E questa è stata l'altra bomba, fra virgolette, però in questo caso devo dire che Ben Sudà ha avuto una risposta, ha fatto un'intervista al giornale israeliano Times of Israel, in cui dice, lei non è stata molto colpita da questa accusa che le hanno fatto, dice, perché questo è quello che si dice sempre in questi casi, dice, comunque tutte le volte per discreditare i testimoni nei vari processi si dice. Gli si fanno queste accuse, dice, ma io continuerò a fare quello che devo fare, naturalmente in tutta imparzialità, e ha detto che molto, anche qui molto tranquillamente, però devo dire che quindi la stima nei suoi confronti forse si è un pochino alzata in questi ultimi tempi. Ecco, direi che io adesso non so se c'è da aggiungere qualcosa. No, quello che c'è da aggiungere è che questa manifestazione che c'è stata all'Aia è stata una manifestazione non di grandissime dimensioni, diceva Laura, sono 400 persone, 400, 500 quelle che sono state, però è la prima manifestazione internazionale che avviene sulla Palestina. Perché ci sono dei momenti internazionali che sono giornate di solidarietà per la Palestina, dove ognuno manifesta a casa propria, per dire. Però questa è stata la prima manifestazione internazionale in cui ci si è trovati e si è fronteggiato anche un problema, cioè si è focalizzato la questione dei diritti umani e individuando anche un interlocutore preciso, cosa che invece in Bravo. generale si manifesta per la Palestina, ma insomma poi l'interlocutore tende un po' sempre a sottrarsi. Invece qui l'interlocutore è stato un interlocutore preciso, la manifestazione non è stata grandiosa, ma il risultato c'è stato. Posso aggiungere un paio di cose proprio a questo proposito? Intanto, gli organizzatori di questa manifestazione hanno deciso di rincontrarsi, mi pare all'inizio di marzo. Non aggiungo altro perché appunto bene avere un po' di scaramanzia in questi casi, però ho visto varie, ci sono state varie nella chat, vari messaggi che dicono appunto che questa cosa succederà. E poi effettivamente ho pensato così, preparando questa trasmissione, che in tutto il pessimismo, in tutta la disperazione per quello che sta succedendo e per la situazione dell'occupazione della Palestina e dei diritti umani calpestati, Qualcosa però forse adesso si sta muovendo. Ecco, io ci vedo un piccolo spiraglio in tutto questo, anche se probabilmente, non so, le cose non è detto, saranno lunghe, sarà lungo, sarà molto lunga questa cosa della Corte Penale, ma questo che ha detto Claudio mi pare fondamentale, cioè c'è un primo movimento internazionale, anche perché, Firenze, te lo ricordi, tu mi dicevi, c'era gente anche che ha parlato che veniva dall'America, dagli Stati C'era Uniti. una Anne Wright, Freedom Flotillas and the Mavi Marmara. Poi c'era gente dal Regno Unito, del Football Against Apartheid, sui crimini commessi contro i giocatori di calcio, i calciatori palestinesi. C'era Svizzera, Germania, la Francia. Dall'Italia c'era Youssef Salman, un delegato della Mezzaluna Rossa palestinese in Italia. C'erano rappresentanti dal Belgio, dall'Olanda. E anche un giornalista francese, Jacques-Marie Bourget, che ha raccontato la sua esperienza terribile perché è stato ferito deliberatamente dall'esercito israeliano nel 2000 e che ha condotto una battaglia lunga e difficile, ma finalmente l'ha vinta per Vinta. essere riconosciuto come vittima del terrorismo israeliano. Bene, noi concludiamo questa trasmissione e continuiamo con il nostro impegno. Volevo ricordare le scadenze e gli appuntamenti imminenti che sono durante questa settimana alla Fratellamento, al Teatro La Fratellamento, c'è una mostra fotografica sulla Palestina Sì. che dura fino a venerdì 24, in cui ci sarà una serata dalle 19:30 in poi, in cui coloro che sono stati recentemente in Palestina racconteranno quello che hanno visto e la loro esperienza. Questo è venerdì 24, venerdì di questa settimana. Il 1 febbraio, invece, alle ore 18, a Vingone, alla Casa del Popolo di Vingone, ci sarà Egidia Beretta, la madre di Vittorio Annigoni, che parlerà del libro che ha scritto, parlerà di suo figlio e seguirà cena e concerto. Speriamo di vedervi numerosi e vi diamo appuntamento a queste due scadenze, venerdì 24, questa settimana, e il 1 febbraio a Vingone. Buon ascolto e arrivederci a mercoledì prossimo.